Un salutone a tutti e tutti, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che focalizza le sue attenzioni su ciò che accade nella parte nord-ovest della città. Ricordiamo il Radio Wombat, la potete ascoltare appunto in streaming, wombat.noblogs.org/streaming e in onde medie 1359. Passaggio a Nord-Ovest va in onda in diretta il lunedì alle 13 e in replica il martedì alle 15.30, il mercoledì alle 18 e il venerdì sempre alle 15.30. Puntata 58 in cui appunto Passaggi a Nord-Ovest opera una sorta di toponomastica o un'odonomastica, più o meno un sinonimo resistente. Parliamo infatti di via Reginaldo Giuliani, una delle vie più lunghe e più conosciute di Firenze. Buongiorno, sì, in effetti è una delle vie sicuramente più importanti della parte nord di Firenze, perché collega il comune di Firenze appunto a uno dei suoi comuni limitrofi più popolosi, e cioè Sesto Fiorentino, ed è una strada costruita, su cui sono state costruite case fino dai tempi dai romani e prima ancora, quindi è molto popolata, è praticamente circondata da case dalla parte sinistra e dalla parte destra, quindi i residenti su questa strada sono molto numerosi. E una delle cose importanti di questa strada è che nel quartiere in cui è l'inizio della strada, e cioè Rifredi Castello, se girate per le vie vedrete diverse lapidi con ricordo di partigiani e caduti, e specialmente proprio in via Reginaldo Giuliani al farmaceutico militare, dentro il cancello c'è una lapide che ricorda un eccidio. Questo eccidio, sono state uccise 12 persone completamente innocenti dai fascisti, che si erano sparati tra di sé per sbaglio, e che per non fare la figura dei cretini quali erano, hanno dato la colpa a degli italiani. Quindi il comando che era nelle ville proprio sopra Castello ha pensato bene di entrare dentro il panificio militare, in cui sotto c'era un rifugio praticamente per sfollati, e loro sono entrati sparando all'impazzata e hanno appunto ucciso 12 persone completamente innocenti. Ma appunto questa via è intitolata a Reginaldo Giuliani, che con la sottodicitura medaglia d'oro al valor militare, ma in realtà, e questo può trarre in confusione, ecco, ma in realtà appunto chi era Reginaldo Giuliani? Sì, in un quartiere dove appunto c'è stata un'alta densità di partigiani e di lotte durante il fascismo e la resistenza, vedere lapidi con scritto medaglia al valore militare d'oro può trarre in inganno, perché la stessa Firenze è una medaglia d'oro, però per la resistenza, mentre invece Reginaldo Giuliani era un cappellano militare fascista, era proprio un militante fascista da sempre in prima fila nelle imprese che il duce ordinava. Era infatti in prima fila nella prima guerra mondiale, lo è stato nella marcia di Roma e è pure andato in terra etiope a combattere insieme ai fascisti, dove ha perso la vita nel 1936. E ci puoi dire qualcosa di più preciso su questo soggetto che pare proprio che incarni questo connubio tra religione, guerra, totalitarismo? Sì, era domenicano e all'inizio, quando era solo, diciamo, un domenicano, predicava, era un attivo predicatore antisocialista e un acceso nazionalista. Durante la prima guerra mondiale è nominato cappellano, tenente cappellano, e ha partecipato a diverse battaglie. A termine della guerra prende parte all'occupazione di Fiume insieme agli squadristi cattolici delle Fiamme Bianche, partecipando addirittura anche alla benedizione del pugnale. Quando il fascismo comincia l'ascesa, naturalmente lui è entusiasta, perché naturalmente è restauratore dell'ordine, e quindi si iscrive subito ai fasci italiani di combattimento, quindi divenne cappellano delle camicie nere. A 48 anni si arruolò volontario nella guerra d'Etiopia, partendo nell'aprile 35 come cappellano del primo gruppo battaglioni camicie nere d'Eritrea. Le sue corrispondenze private e per il quotidiano torinese La Gazzetta del Popolo mostrano la cieca fiducia di Giuliani nel duce e nella guerra coloniale. Morì nella battaglia di Passo Guareiu, vinto. Cosa è successo dopo? Praticamente i fascisti ne fecero un eroe, no? Per cui appunto gli è stata data la medaglia e l'hanno fatto diventare un martire cristiano, praticamente, in quanto era un perfetto milite fascista, obbediente, convinto della bontà e del successo della causa nazionale. Detto di lui letteralmente. Quindi un fascista guerrafondaio che ha legittimato i massacri dell'esercito coloniale italiano e appunto uno dei soggetti utilizzati per questi miti fascisti. E non a caso queste gesta vengono evocate nella cantata del Legionario. Sì, infatti in un capoverso di questa cantata si legge, si canta: gronda il sangue il gagliardetto nero che contro l'amba il barbaro inchiodò, sui morti che lasciammo a passo ureu la croce di Giuliani sfolgorò, duce per il duce e per l'impero. Allora, una cosa importante di cui tener conto è che mentre Giuliani era in Etiopia era arrivato Badoglio, che Badoglio fu il massacratore d'Eritrea totale, perché cioè, non che quelli prima fossero tanto meglio, però lui, la sua idea era la distruzione totale, quindi cominciarono a distruggere villaggi ammazzando tutti quelli che trovavano, hanno cominciato a usare la pirite, il gas, e una quantità veramente enorme di bombe buttate, in neanche un mese buttarono 2000 quintali di bombe, di cui una parte rilevante caricate anche a gas, tra cui l'iprite, il solfuro di etile biclorato, che provoca, ricordiamolo, la necrosi del protoplasma cellulare ed è mortale. E prima di continuare ci sentiamo un pezzo musicale. L'autore è Alemayu Eshete, uno dei più noti jazzisti etiopi, e il pezzo è un inno, diciamo, alla propria capitale, Addis Ababa Bethe. Addis Abeba bebe, Addis Abeba bebe, Addis Abeba bebe, Addis Abeba bebe. Çekgalic konjordi, jallec gorbete, gorbete, gorbete, gorbete, gorbete, gorbete, gorbete. Rendiao imanyusha, rendiao imanyusha, rendiao imanyusha, rendiao imanyusha. Bemnyot ikwazu, sodet yagnyusha, yagnyusha, yagnyusha, yagnyusha. E tra le altre cose è possibile anche reperire in rete, esiste queste conferenze patriottiche del padre Reginaldo Giuliani, medaglia d'oro, in cui appunto il soggetto scrive, sono circa 60 pagine di continuo florilegio, ammirazione entusiastica di Mussolini, oltre che altrettanto chiaramente di giustificazione e quindi di adesione entusiasta della guerra d'Etiopia. E ritornando appunto alla guerra d'Etiopia, ritornando ai crimini italiani, guerra d'Etiopia di cui appunto Reginaldo Giuliani fu una sorta di fiancheggiatore sostanzialmente, quello che li giustificava davanti a, in particolar modo davanti all'opinione pubblica cattolica. c'è un sito criminedeguerra.it sulla specifica campagna d'Etiopia in cui viene spiegato chiaramente la vastità dei crimini di guerra italiani in Etiopia, e tra l'altro proprio nel periodo in cui Reginaldo Giuliani era al fronte. Sì, no, lui faceva di più che fiancheggiare, perché praticamente dava l'estrema unzione a quelli che stavano per morire, istigava all'avanzata, eccetera. E ricordiamoci che la guerra in Etiopia che ha fatto l'Italia è stata una guerra veramente criminale, perché italiani, brava gente, ma un corno. Anche questa è una rimozione totale che ha fatto l'Italia, che di una cosa che invece andrebbe fatta sapere a tutti, a scuola proprio, andrebbe insegnato che cosa ha fatto l'Italia, perché non si sono riguardate più niente, hanno torturato, ammazzato, hanno utilizzato, a parte la pirite, per la prima volta i lanciafiamme, cioè hanno fatto uso di quintalate di bombe, armi, di tutto, granate scaricate con l'arsine, cioè hanno fatto veramente dei crimini indicibili, capito? Quindi questa è una parte di storia che l'Italia nega, ha sempre negato, e che invece andrebbe conosciuta, anche perché infatti così si conoscerebbe per esempio che Reginaldo Giuliani è indecente che abbia una via a suo nome, perché uno che ha partecipato entusiasticamente a una cosa come questa è indecente che abbia una via così importante e grande e lunga più di 4 chilometri in una città che è medaglia d'oro per la resistenza. E sempre appunto in questo livello, chiamiamolo così, di conferenze, Reginaldo Giuliani, medaglia d'oro. E a proposito appunto di toponomastia, di autonomastia resistente, c'è un passaggio che, ecco, come dice questo passaggio? Il duce sentì l'eterna città, il cielo, le pietre, le acque gli han cantato la sovranità spirituale dei suoi pontefici. Senti questa Italia benedetta, dove ogni zolla si cambia in fiore, dove ogni fiore è sacro all'idealità, dove vi è dell'anima anche nel fischio del monello, dove cantando si offre in olocausto a Dio e all'umanità l'anima epica di Carlo del Prete. Eccoci, e questo è un altro bel tipino di cui anche lì abbiamo una via importante, lunga. Anche lui partecipa alla prima guerra mondiale come ufficiale di marina. Nel 18 scorta con la prima nave i MAS di Gabriele D'Annunzio. Nel 22 ottiene il brevetto di pilota. Insomma, una camicia nera anche lui. Quindi, voglio dire, secondo me sarebbe da parte del Comune di Firenze necessario, veramente necessario, revisionare tutta questa toponomastica, togliendo questi nomi che veramente infangano la città e gli abitanti, che io sono convinta nel 90% non lo sanno neanche che cosa sono, chi sono questi qui, perché anche Carlo del Prete magari c'è scritto pilota. Uno dice, chissà che ha fatto, e invece era un fascista Carlo del Prete, non è che pilotava per andare a portare la posta. E comunque alcuni abitanti, un gruppo di abitanti di via Reginaldo Giuliani, un gruppo di abitanti anziani, a un certo punto, circa 3 anni fa, comincia a interrogarsi, ecco, sul nome stesso della via dove risiedono. Sì, perché praticamente loro sono gli unici che hanno questa memoria, no? Per cui sanno benissimo che Reginaldo Giuliani era un fascista, e questo giustamente gli indigna. E appunto sempre circa appunto 3 anni fa viene distribuito questo volantino con una firma abitanti del quartiere e come riferimento il blog di SOS Castello, cioè soscastello.noblogs.org. E a un certo punto, appunto, dopo aver descritto in breve quello che, insomma, in una maniera più estesa abbiamo parlato precedentemente, si chiedono. Certo, si chiedono perché migliaia di residenti devono sopportare, oltre al disagio quotidiano, una simile umiliazione. La storia di Firenze e dei suoi quartieri è una storia di lotta contro le tirannie e il fascismo, ed è tratto fondamentale della nostra identità e della nostra memoria. Identità e memoria di cui anche i nomi delle vie cittadine sono parte. Sarebbe l'ora che via Reginaldo Giugnani cambiasse nome e smettesse di offendere con la sua ingombrante vicinanza tutte le vittime del nazifascismo, a partire di quelle della strage di Castello, i 12 civili caduti nell'esecuzione sommaria avvenuta per rappresaglia all'Istituto Farmaceutico Militare il 5 agosto 1944, e di cui manca ancora una memoria degna e diffusa. E ci sentiamo un altro pezzo musicale. Gruppo sono i Motivels, il titolo dell'album è Chant de Lutte, e il pezzo si intitola Nequins Varak en Lazer. الرش الزاير وغيزك اليوان نكنس ورش الزاير وغيزك اليوان من كرات روح نبغى تذن نبغى تقلو نبغى تعمر نرواث معيشت وكسر دوسا ونرواث معيشت وكسر دوسا ون انوي ذا رفيق انوي ذا مشوق أنا وإذا حقيق ذوين يوثني وين يسرون أنا وإذا رفيق أنا وإذا مشوم أنا وإذا حقيق ذوين يوثني وين يسرون ويسرون يسلاب أنا يقري راب يذو ذبو عكز قفص وين فكنا سير زاق الروزة تعيش لي لهنا مدوي فرا تعيش لي لهنا مدوي نكنس وراش الزاير وغيزك اليوان نكنس وراش الزاير وغيزك اليوان متكرة تروح نبغى تدمر تبغى تحلو نبغى تعمر نروات معيش وكسر دوسا ونروات معيش وكسر دوسا ون أشمث نوضا أمشي تلحو إلى نوية بسنة نادس فلنا قرو أشمت نوضا أمكي تلحو إلى نوية بسنة نادس فلنا قرو أنس بلا غاسور تلو ورثو غيت أكسا والموت تطف تانا قارو ثجد سيديك يسس نار ديور تجد سيديك يسس نار ديور نكنس وراش الزاير وغيزك اليوان نكنس وراش الزاير وغيزك اليوان نتكارة تروح نبغى تدمر تبغى تقلو نبغى تعمر نروات معيشت وكسر دوسا ونروات معيشت وكسر دوسا هني ماني شي قرز روح فيك تبكي جدي لك والبركة كميز هني مانيك كل شي قرز روح فيك تبكي جدي لك والبركة كميز سلسل موثيك بركة نكز ما ناناك الباد البال ومن جيد الهمزة اكمل نيك العلم قايفر اكمل نيك العلم قايفر نكنس وراش الزاير وغيزك اليوان شهد زاير وغيز قليوان متقرة تروح نبغى تذنى تبغى تقلو نبغى تعمر نرواذ معيشت وكسد وساوى نرواذ معيشت وكسد وساوى seppur nella difficoltà da un punto, o meglio delle difficoltà che paventano, anche se in realtà poi non è così, è possibile cambiare il nome a una via, è possibile cambiarlo anche ad una scuola. Sì, è possibile, ma come sanno, come possono confermare per esempio gli abitanti di Cinisello Balsamo, non è così semplice, nel senso che loro avevano una scuola intestata appunto a padre Reginaldo Giuliani, chiamata così durante il fascismo. Naturalmente dopo la fine della guerra e con la resistenza la giunta propose di intitolare la scuola a Eugenio Curiel, dirigente del fronte della gioventù gappista assassinato a Milano il 24 febbraio del 45, ma l'approvazione delle autorità scolastiche non arriverà mai. Loro però hanno continuato a voler cambiargli il nome e alla fine nel 2011 sono riuscita a farcela, e la scuola adesso è intitolata Giovanni Morandi, che ha collaborato con la resistenza e divenne appunto preside di questa stessa scuola. Quindi io direi che noi possiamo intanto cominciare a far sapere al comune, anche attraverso mail o telefonate, che noi questa via non ci piace quest'uomo e non vogliamo che sia intitolata a suo nome. La vita di Reginaldo Giuliani è apertamente in conflitto con la volontà di pace tra popoli e nazione della maggioranza dei residenti, e inoltre è un arduo sostenitore della guerra e delle imprese militari, si scontra con il bisogno di costruire un mondo dove il valore della pace tra i popoli sia preminente. L'aperto sostegno al regime fascista e a Benito Mussolini in persona indigna i residenti e offende i valori della resistenza e degli stessi martiri dell'occupazione nazifascista. Il fatto che proprio su quella via ci sia stato un eccidio, secondo me, la rende una cosa veramente disgustosa. E questo Comune di Firenze andrà fatto capire in qualche modo. Sì, appunto parlando dei martiri di Castello, parliamo appunto di questo quartiere, del quartiere di Fredi, in cui sfortunatamente purtroppo di partigiani morto anche recentemente. Sì, e infatti questo potrebbe essere un bellissimo modo di richiamare questa via, mettendo il nome di un ragazzo nato e cresciuto in questo quartiere, che è andato a combattere il fascismo da un'altra parte e lì è morto. Passaggio a Nord-Ovest, trasmissione 58, Radio Wombat, vi ricordiamo lo streaming Radio Wombat, wombat.blogs.org, vi ricordiamo anche sempre sul sito si possono trovare i podcast delle trasmissioni di Passaggio a Nord-Ovest e di tutte le trasmissioni, di tutte le rubriche di Radio Wombat, podcast che appunto potete, in cui potete appunto riascoltare anche dopo la settimana in cui vengono trasmesse tutte le trasmissioni della radio, sempre sul sito. Il palinsesto e la descrizione delle rubriche appunto delle trasmissioni di Radio Wombat. Ciao ciao.